La politica qualche volta rompe gli argini, i confini, soprattutto quando ci sono in ballo cose come queste, cioè la presentazione delle liste, la sopravvivenza stessa dei politici, con naturalmente tutte le poltrone annesse ai consigli regionali. E allora sentite Renata Polverini, candidato del PDL, del centrodestra, insomma non solo del PDL, alla presidenza della Regione Lazio, come finisce, o come inizia, non ricordo, forse la fine, anzi, la fine, come finisce il comizio di oggi in nome della libertà e contro lo scippo. Noi oggi abbiamo riempito la piazza, ma è una piazza che diventa un mare, tanto la canzone la conoscete tutti. E allora cominciamo. Come può uno scoglio arginare il mare? Anche se non voglio, torno già a volare. Le distese azzurre, io non so voce, e le verdi terre. Le distese ardite e le risalite, e nel cielo aperto, e poi sul deserto, con un grande salto, con un grande salto. Non so se vi rendete conto, e però c'è un precedente. Il precedente riguarda Paolo Bonaiuti, nemmeno troppo tempo fa. Sentite. Ma per quanto poi riguarda l'impedirgli il lavoro, io ricordo a lei, dottor Bracchino, una canzone di Battisti. Come può uno scoglio arginare il mare? Anche se non voglio, già volare, le distese azzurre. Il mare, in questo caso, nel caso di Bonaiuti è Berlusconi, nel caso della Polverini è naturalmente il PDL, che non può essere arginato da questi giudici, come dice Berlusconi, da questi PM troppo pignoli, troppo formali, che vogliono impedire il regolare svolgimento delle elezioni. 800 24 00 24, verrebbe da dire di cosa stiamo parlando.